Il terremoto. Medinese numero 93, di 8 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Quando la terra sarà agitata nel terremoto. La terra rigetterà i suoi fardelli. E dirà l'uomo, cosa le succede? In quel giorno racconterà le sue storie. Giacché il tuo Signore gliele avrà ispirate. In quel giorno gli uomini usciranno in gruppo affinché siano mostrate loro e le loro opere. Chi avrà fatto anche solo il peso di un atomo di bene lo vedrà. E chi avrà fatto anche solo il peso di un atomo di male lo vedrà.